nasce da una decina di anni di lavoro intorno al tema delle strade, della viabilità, anche se dal lato, diciamo, di chi si ferma, visto che da tanti anni lavoro con autogrill e con aziende che si occupano di ristorazione, e a furia di affacciarmi sulle strade con le mie architetture mi sono reso conto che se davvero i trasporti devono diventare verde, non possono essere né solo le architetture che ci si affacciano intorno, né solo i mezzi stessi, auspichiamocelo, di trasporto, ma anche la stessa infrastruttura, lo stesso supporto su cui poi mezzi di trasporto puliti, auspichiamocelo ancora, possono viaggiare. Quindi il ragionamento è nato da lì. Tra l'altro, Ceppi, mi sembra di capire che hanno aderito moltissime aziende. A che punto siamo? Perché, insomma, di solito poi noi giornalisti ci innamoriamo anche di questi progetti, è stato presentato alla Triennale, ne hanno parlato un po' tutti. A questo punto, cioè, dopo aver annunciato questo, che è sicuramente un oggetto interessante per il verde, poi magari ci spiega anche quanta energia si potrebbe produrre, che cosa è successo? Ma diciamo che sono moderatamente ottimista, perché abbiamo una decina di soggetti, di aziende che chiaramente vengono tutti dal settore delle costruzioni stradali, ognuna delle quali ha una tecnologia, dal fotovoltaico a asfalti fotocatalitici a sistemi appunto di aerogenerazione, ma anche chiaramente aspetti relativi alla sicurezza, quindi barriere protettive piuttosto che forno assorbenti, che stanno lavorando insieme a noi. Andremo adesso a Leire, alla fiera del real estate, proprio perché questa strada cambia anche il concetto di cifra e di investimento che ruota intorno al manufatto strada, perché vuol dire che una strada ha una rendita sul tempo, quindi diventa un soggetto appunto di investimento immobiliare.